voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Alberto Bauli, il lato più morbido del Natale, di Anna Marino. Potrebbe essere anche un incubo, nel senso che il Natale per noi è un momento non comune per tutti quanti, uguale a tutti gli altri, perché per noi è il momento in cui sono terminate una serie di problematiche legate al lavoro molto intense. Però devo dire che negli ultimi anni, con l'azienda che è cresciuta di dimensione, con tante cose che sono accadute, un po' di Natale comincio a goderlo anch'io. Le feste di Natale e Pasqua a casa Bauli sono davvero speciali, come spiega Luigi Bauli, presidente della Bauli S.p.A. Storica e nota azienda italiana di prodotti da forno a lievitazione naturale, come panettoni, pandori, colomba e croissant, fondata a Verona nel 1922 dal pasticcere Ruggero Bauli, oggi l'azienda ha sede a Casteldazzano, nel Veronese. Il numero di dipendenti del gruppo si aggira sui 1.700. Ha chiuso l'ultimo esercizio con un fatturato di oltre 400 milioni di euro. Dopo l'acquisizione dell'azienda dolciaria FBF, specializzata in pasta sfoglia e croissant, e dell'azienda trevigiana Doria, famosa per i biscotti Bucaneve, nell'estate del 2009 sono arrivate quelle dal gruppo Nestlé dei marchi Motta, Tartufone e Alemagna. Tutto però ha avuto un inizio rocambolesco, da un'avventura oltreoceano intrapresa dal fondatore prima di approdare a Verona per arrivare alla realizzazione del suo sogno. Alberto Bauli ricorda come suo padre andò a cercare fortuna. Mio padre era nato nel 1895, quindi parliamo dell'altro secolo. Era nono di 13 fratelli. Mio nonno, che io non ho mai conosciuto, aveva un'attività, un negozio di generi alimentari, era un fornaio praticamente, che faceva la sua attività in un paese vicino a Verona, dove ogni anno purtroppo nella mia provincia c'erano 3.000-3.500 persone che emigravano e conseguentemente quando gli emigranti andavano via il conto del bottegaio non veniva pagato perché si pagava una volta al mese col salario. Quindi mio nonno dovette chiudere, mio padre che era un bravo studente faceva la quarta elementare, era molto bravo, una bella calligrafia, dovette andare a lavorare da un pasticcere dove ebbe modo di prendere una patente che poi gli servì. Quando ci fu la lira con la quota 90 non si poteva fare il mestiere di mio padre, allora pensò di andare a vedere se l'Argentina era un bel paese. Tornò dopo un primo viaggio convinto che l'Argentina era veramente un paese di ricchi, perché nel frattempo avevano venduto tutta la carne all'Europa che era rimasta imprigionata nella prima guerra mondiale. Si imbarcò una seconda volta con i suoi macchinari su una nave, si chiamava Principessa Mafalda, e 300 miglia al largo di Rio de Janeiro si sfilò un'elica, entrò l'acqua, la nave cominciò a imbarcare acqua, la nave affondò, morirono 300 persone. Mio padre si salvò pur non sapendo nuotare, perché il giubbotto lo mandò con un'onda contro le navi che erano accorse, e da lì è iniziata la sua peripezia in America, prima a Rio de Janeiro facendo il tassista e poi andando a Buenos Aires, dove in 10 anni divenne capo di una grossa pasticceria che pagava secondo la produttività, come si comincia a cercare di fare anche oggi in Italia. In pochi mesi fece fortuna in Argentina e aprì infatti una sua pasticceria. Dopo alcuni anni si ritrovò con più di 40 dipendenti. Ma nel cuore c'era ancora lei, la sua città natale, Verona. Nel 1937 Ruggero decise di tornare in Italia e con sua moglie Zina aprì un laboratorio e il suo primo negozio. E da lì è iniziata tutta l'avventura. E grazie alla sua esperienza e al suo impegno, e a ritmo di 5.000 paste al giorno, Ruggero Bauli divenne il primo pasticcere della città. Infatti, dopo il secondo conflitto mondiale, per l'Italia ci fu un periodo di boom. E Ruggero era già proiettato verso il futuro, mettendosi a produrre il dolce tradizionale veronese, il pandoro. Fu l'intuizione vincente. Così, prima da artigiano e dal 1953 in un laboratorio di 500 metri quadri, iniziò con una ventina di operai la produzione a regime. Alberto Bauli racconta la storia dei nostri dolci di Natale. Il pandoro, come il panettone, sono dei capolavori dell'industria dolciaria italiana che risiedono nella capacità che il nostro paese ha mantenuto, ma il mondo ha abbandonato, di utilizzare la lievitazione naturale, e consente di avere un prodotto, appunto il pandoro a Verona o il panettone a Milano, che ha una caratteristica qualitativa molto elevata. Una digeribilità particolare, perché si tratta di una lievitazione fatta con lattobacilli e saccaromiceti, ma poi anche ha un grande pregio che dura nel tempo, una lunga shelf life, e questo garantisce anche una migliore economicità nella distribuzione. Questo prodotto è stato lanciato in Italia da, parlo del panettone, da Angelo Motta nel 19, che ebbe l'idea di fare quello che si chiama pirottino, cioè quel contenitore di carta per consentire una lievitazione verticale. Nel dopoguerra il Pandoro di Verona, che era una specialità locale, andò a soddisfare quelle persone che, non amando i cedri o le uvette, volevano la stessa cosa ma senza, e lì abbiamo avuto noi Bauli la fortuna di poter lanciare questo prodotto e diventarne poi leader. Verona, la città romantica di Romeo e Giulietta, dei conflitti tra Montecchi e Capuleti, dell'Arena e le sue manifestazioni musicali e culturali. Alberto Bauli è nato qui e si è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Padova nel 1971, discutendo la tesi Storia economica di Verona dal 1886 al 1896. Nell'azienda di famiglia è entrato nel 1960, occupandosi specificamente delle aree amministrativa e commerciale e portando l'azienda dolciaria veronese ad essere leader di mercato. Alberto Bauli può perciò ben spiegare quanto sia presente il territorio e la tradizione veronese nelle dolci ricette di loro produzione. A Natale il panettone, il pandoro e il cioccolato delle feste. A Pasqua la colomba e le uova di cioccolato. Noi siamo un'azienda di Verona, DOC, e Verona si riconosce in questo dolce come in altre cose. Verona è una città molto bella, una città con molte cose interessanti, forse non conosciuta sufficientemente, ma è stata scoperta negli ultimi 20 anni, tant'è che siamo diventati poi la quarta città turistica italiana. Ma di Verona c'è molto, perché è il dolce tipico della nostra città, e oggi gli italiani mangiano il 60% di panettoni, ma il 40% è pandoro. È un messaggero dolce. Ma un ruolo importante anche per gli scambi commerciali è quello del dialetto. E Alberto Bauli lo sa bene. Io lo parlo perfettamente. Il dialetto nel Veneto è una lingua. L'imperatrice russa scriveva in veneziano, ci sono dei vocabolari veneziano-italiano. La frase forse che riguarda i veneti, che penso mi, che è l'equivalente del milanese, ma in fondo il carattere veneto è un'altra cosa, è una capacità che hanno avuto tutte le genti di questa regione di essere lavoratori molto tenaci. È stata un'area che è diventata, oggi il Veneto è considerato una specie di laboratorio, ma non l'è diventato soltanto perché abbiamo una zona geografica che ci favorisce, lo è anche perché, non so se la dominazione è veneta, non so se per l'educazione religiosa, il cattolicesimo, ma insomma da noi esiste un culto del lavoro che è veramente, maggiore che in altre zone. Per il carattere veneto o per i punti di forza, Bauli, in controtendenza rispetto al mondo industriale italiano e internazionale, non ha conosciuto gli effetti delle difficoltà economiche. Durante il periodo, in cui i tassi si sono abbassati, abbiamo avuto la capacità o l'avvertenza o l'intelligenza, chiamatela come volete, di sviluppare l'azienda con delle acquisizioni anche importanti. E questo proprio in virtù di quella che è la prospettiva che secondo noi ha un settore alimentare come il nostro, che per sua natura difficilmente ha delle grandi recessioni. Quando cala dell'1% c'è da urlare, perché la gente mangia e non può non mangiare. Il numero complessivo di pandori e panettoni Bauli prodotti a Natale è di oltre 21 milioni di pezzi, dei quali il 6% è destinato al mercato estero. E l'attività dei prodotti da ricorrenza è davvero diversa dalle altre attività industriali, influenzata da eventi esterni, concentrata in alcuni periodi, come spiega Alberto Bauli. Noi eravamo obbligati ad avere 1200-1300 stagionali ogni anno, due volte l'anno, Natale a Pasqua, per produrre. Questo ci dava ovviamente tutta una serie di considerazioni negative, cioè la complessità dell'azienda era veramente molto molto grande, tant'è che è un settore che si è molto concentrato, sono poche le aziende che fanno industrialmente questo tipo di attività. Noi, rendendoci conto di ciò, abbiamo sempre cercato di diversificare l'azienda, di fare dell'altro. E ci siamo sempre riusciti, perché negli ultimi anni le acquisizioni che abbiamo fatto ci hanno portato a far pesare l'azienda, fino a 2 anni fa, il 50% Natale e Pasqua e il 50% erano fuori della ricorrenza. Poi l'acquisizione ultima, che è stata quella di Moto Alemagna, ovviamente ha nuovamente sbilanciato in questo senso. Ma nelle aziende familiari credo che il primo obiettivo è quello di riuscire a passare l'azienda a chi viene dopo più forte di prima. Bauli ha visto uno sviluppo costante nel settore fin dagli anni 60, fino ad imporsi idea dopo idea sul territorio nazionale. E dagli anni 70, ad affiancare Ruggero nella sua impresa, entrarono i figli, Alberto, Carlo e Adriano. Le loro specializzazioni scolastiche e un pizzico di intraprendenza fecero di Bauli un'azienda dinamica e moderna, senza perdere di vista quei valori dettati fin dagli anni 20 dal padre. Ecco la ricetta Bauli per il passaggio generazionale spiegata da Alberto, uno dei fratelli di seconda generazione. Tre fratelli e una sorella, noi siamo i titolari dell'azienda e devo dire che il segreto è sempre stato quello di considerare l'azienda cosa terza, non il cassetto a cui tutti attingere. E questo consente un equilibrio all'interno della famiglia, perché allora l'azienda è una cosa, la famiglia è un'altra, la proprietà è una cosa, il possesso è più delegato. Sono ragionamenti semplici, ma nella natura dell'uomo non sono facili da essere applicati, perché la natura è possessiva. È roba mia, no? Ma non è così. La notorietà. Bauli ha sempre legato il proprio marchio al colore rosa delle confezioni. Nel 1968 lancia la sua prima campagna pubblicitaria. Andoro Bauli, più soffice e buono. Entra anche tu nel Natale di Bauli. Il cognome è un bene o un male, cioè in qualche volta aiuta, magari qualche multa in meno l'ho presa, però il cognome è anche un impegno molto forte. E poi c'è un aspetto, direi, quotidiano, che devi sempre raccontare a tutti la stessa storia, che è un po' noioso. È Natale, a Natale si può fare di più. E per tutti un augurio speciale per le festività proprio da Alberto Bauli. Considerato il momento, è veramente il caso di fare un augurio che ci sia un Natale sereno, sereno per tutti, perché in questo momento possiamo dire che la serenità è il bene maggiore di cui tutti abbiamo bisogno e non tutti invece l'hanno. È Natale, a Natale si può fare di più. La dolcezza aiuta ad essere sereni. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.